Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, oggi giovedì il giorno dei talk show politici, eh? Una vera manna per i bimbi più vivaci e litigiosi. Tanto che non si chiamano più talk show politici, ma si chiamano fight club politici. La violenza regna sovrana e la confusione prende possesso della scena, come in un recente fight club tra il bambino Belpietro e il bambino Santoro. Senti qua. Vabbè, no, scusate, però... No, se vedi altre sette cose che non c'entrano un tubo con vedi, non c'entra un tubo. Non si capiscono più. Ma chi è che parla? Parliamo del tema. Vedi, parliamo del tema. Se volete fare voi una vostra... Ma fuori tema anche loro, ci vorrebbe Tito il Tutor anche per loro. No, io li faccio parlare. Quasi quasi glielo mandiamo. Pietro, però non fai così con me. Io faccio parlare, però stiamo al tema. Chi è che fa parlare? Beh, sembra che le figlie faccia parlare nessuno. No, stiamo al tema, non aggrediamo persone, non piano. Che tu debba darmi lezioni sul tema, se mi bambino Belpietro non accetta niente. Ma io posso dire la mia? Non do lezioni, però nemmeno le prendo. Va bene? Ok. Posso dire la mia? Puoi dire nei tempi ma corretti. Ma se tu stai perdendo tempo, guarda quanto tempo allora, se fossi stato zitto mi avessi non importa, guarda, se continui così vado a Berlino e andiamo avanti, possiamo va bene. Continuare? O bambini. Vuoi continuare a interrompermi? Continua a interrompere, allora che allora, fatto? Continui, vabbè, continui, adesso continui, basta, continui, allora. Continui, allora. Continui, ma no, continui, signorina, niente. Ma cerchiamo di essere seri, non sentono ragione. Cerchiamo di essere seri e di dire le cose. Vuoi dire una cosa che ritieni importante? Dilla tu, prego. E poi? E poi cosa? Qual è la cosa importante che voleva dire il bambino Belpietro? Quella. Quale quella? Non ha detto niente, la cosa importante che voleva dire era il nulla, capito? Per una volta il bambino Belpietro ha dato davvero il massimo, un grande certo nichilista. Sì, ma povero bambino Belpietro, insomma, perché? Sarà ancora succube della sindrome di Salman Rushdie dopo il fallito attentato sotto casa sua, sì, no? E poi su quella storia lì è calato il silenzio, non si sa più niente. Però... Si sa solo che la colpa è del bambino Grillo e del bambino Di Pietro. Scusa, la colpa in che senso? Ma perché sono loro che sobillano a tirare il Duomo in testa al bambino Berlusconi, sì, capito? O a picchiare il bambino primo della classe Capezzone, sì, e poi a sparare al bambino Belpietro. Sì, vabbè, però chi è che lo dice? Il bambino Gasparri. Di Pietro e Grillo sono responsabili della stagione di odio gravissimo. Hai capito? Gravissimo, È gravissimo. Però esiste un talk show un po' meno fight club di altri, Drago? Dai, quello del bambino Vespa. Ah, beh, il Vespino. Vespino, lui è uno stile tutto vellutato, Lui raramente perde la pazienza e ammorbidisce tutto con i suoi modi vellutati. Ma è ancora vellutati? Sì, è la vellutata di Vespa. Ma è cos'è? La specialità, di casa Vespa. Una specie di zuppa. Qualunque argomento diventa lounge. D'estate può anche andar bene perché fa le puntate sui bikini, la minigonna. Sì, però. Poi appena può mette su un plastico e fa la puntata sull'omicidio di turno, no? Sempre con quello stile lì vellutato, un po' cool. Vellutato. Strano che non diano dei cocktail. Cosa dici? Cocktail agli ospiti mentre sono lì che si godono lo spettacolo del bambino Vespa che gioca con le macchinine nel plastico di avetrana. Terzo momento. Cosima esce, sale sulla sua macchina. Brum, brum. Mariangela dice: io vado ad accompagnare la mia sorellina piccola che era salita con lei, e scompare anche lei. Sabrina sale sulla macchina della madre e va via. Drago, ma svegliati, il bambino Vespa ha finito con le macchinine. Ok. Anche con la vellutata ha finito. Okay. E poi il sonnellino era ieri, possibile. Ok, perché adesso cosa c'è invece? Adesso c'è la filastrocca. Bene, così io continuo. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? Chiedo asilo! Oh, però adesso occupiamoci del ministro Bambina Gelmini. Ma perché ha messo la sua egida su qualcosa di nuovo? No, ma sta svecchiando il mondo della scuola in modo davvero incisivo, Draghi. Ah, sì, inutile. Eh? Ma sì, dai, con la reintroduzione del maestro unico, per esempio, ha lasciato a casa 85.000 precari. Ah, che bello, eh? Che erano precari da così tanto tempo che, insomma, dai, meglio così. Vabbè, no? Se lo dici tu, vabbè, poi che altro ha fatto? Ha reintrodotto il 5 in condotta come misura antibullismo. Già, già. Però scusa, la bambina ministro Gelmini, più che svecchiarla, la scuola la invecchia. Cioè, maestro unico, 5 in condotta, grembiulino. Vabbè, ma le sue riforme sembrano in realtà delle controriforme, tipo il Tea Party. No, ma aspetta, Drago, c'è una novità. La bambina ministra Gelmini, o ministro bambina Gelmini, insomma, a seconda, è intervenuta al Games Forum di Roma, organizzato dagli editori di videogiochi, no? E finalmente in quella sede si è trovata così bene che ha sdoganato in pieno i videogiochi. Vabbè, certo. Assicurando ai genitori che stare ore e ore davanti ai videogames non fa male. Anzi, fa bene al rendimento scolastico dei figli. Ma come? Certo, e ha anche promesso che presto i test scolastici verranno eliminati totalmente. Ma come eliminati? Certo, a favore di tavolette tipo iPad, con sistemi di apprendimento simili ai videogames, capito? Sì, però dai, insomma, capo, va bene essere entusiasta. Ma cosa? È il futuro, Drago, è il futuro! Ma sentila la bambina ministra o la ministra bambina. Eccellenze reverendissime, signor Presidente, illustri relatori, autorità. Kappa, sei sicuro che stia parlando agli editori di videogiochi? Eccellenze reverendissime, autorità. Oh, zitto! Ogni sistema educativo deve caratterizzarsi per un primato dell'amore sulla pura trasmissione della scienza. Anzi, l'amore per l'uomo e per la sua formazione integrale dovrà informare di sé il metodo con cui il sistema educativo deve contribuire ad informare la sapienza dei cittadini del futuro. Beh, ma non c'entra niente. Ma come no? Parla della sapienza dei cittadini del futuro. Ho capito, chi però sono i cittadini del futuro, Drago? I bambini. Bambini, vabbè, sì. E come si tramandano la sapienza ai bambini? Con i videogames. Sì, ma scusa, ma lei parla d'amore? Vabbè, anche facendo l'amore, logico. Ma cosa? Si imparano le cose giocando ai videogames e anche facendo l'amore. Con i videogames? Vabbè, piuttosto che niente. Chiedo asilo. È ancora grave la situazione dei rifugiati politici a Bari. Nonostante la legge li obblighi a non lasciare il posto in cui hanno richiesto asilo, la città, sede di Ankara, centro accoglienza richiedenti asilo, non dispone di alcuna struttura capace di garantire loro il diritto alla seconda accoglienza. Così sono costretti a dormire per strada. Però, dormire per strada no. Rifugiati di Bari, dovete farvi sentire, perché altri rifugiati sono stati trattati coi guanti. Infatti, il bambino Berlusconi l'ha detto tante volte, che chi chiede asilo viene rifocillato, gli vengono serviti dei drink, previo acquisto di una drink card, ovviamente, però i drink ci sono, sì, quindi insomma. Però c'è una procedura, per vedere se uno può richiedere o no asilo nido, c'è una procedura. Beh, certo, non fanno mica entrare tutti, no. C'è la selezione all'ingresso, come nelle migliori discoteche, e poi devi avere la drink card. Le persone che chiedono asilo nido vengono sottoposte ad un esame che deve accertare se fuggono da situazioni di non libertà per loro pericolose, e allora diamo bibite, cibo, vestiti e coperte. Eh beh, quando se lo merita, l'applauso al bambino Berlusconi bisogna farglielo, Sì, però prima di salutarvi, un aggiornamento che riguarda la bambina ministra Gelmini. Buona ministra bambina Gelmini. Sentiamo un coro spontaneo intonato in suo onore nella palestra di una scuola italiana. Che questa bambina ministro bambina sta facendo veramente discutere tutti. Ma insomma, discutere, mi sembrano insulti questi. Ma scusa, bambino Sgarbi, tu che di istruzione te ne intendi? Cosa ne pensi della bambina Gelmini? La Gelmini non è un ministro dell'istruzione. Ah, vabbè, è un buon ministro della funzione pubblica. Sai chi è Gelminello Alvi? No. Lo conosci o no? Ma chi? Sai chi è? Tu vieni qua, ma chi è Gelminello Alvi? Tu lo sai, perché qui se non rispondo questo si infuria, Non lo so chi è Gelminello Alvi. Gelminello Alvi è un intellettuale di centrodestra intelligentissimo. Va bene. E però sarebbe un ottimo ministro. Va bene. E tu sei un pirla, questo sei. Hai sentito? Sei un pirla, capo. No, diceva te, domani, e mandate le vostre macchinine brum brum a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.